spirulina curva o spezzata, oscura voragine da vincere, da aggredire o da tentare, difficile intento, lavoro lento, per una chiave la sua serratura, metallo soluzione apertura, con una chiave potresti essere padrone, potresti accendere il motore, aprire gli occhi, chiudere il cuore, sentire di essere importante, chiudere gli occhi, aprire il cuore. Vuoi aprire un carcere, una grata, vuoi chiudere disperazione, avrai forse potere, forza, armi, e certamente avrai necessità, avrai gli occhi aperti anche di notte, e la tua chiave non li chiuderà, non aprirà la porta della tua cella, e allora ti mancherà un'altra chiave che chiuda per sempre. L'ossessione della ricerca, la chiave anche un veleno. Que può fare la fa sola.